Monica dalla provincia di Viterbo, perché l'ho già annunciata, una mamma giovanissima, è un po' preoccupata di tutto questo. Perché, Monica? Non poco, molto preoccupata, perché la mia situazione è una situazione, credo, come molte famiglie italiane, perché io sono una casalinga giovane, appunto, e con due bambini. Ho paura, ho molta paura che comunque questa modifica comporterà comunque un notevole aumento dei costi della mia bolletta. Perché lei non ha intanto alternativa, per esempio, all'utilizzo degli elettrodomestici in altre fasce orarie? No, fa andare la lavatrice giorno e notte, Monica? No, principalmente però di giorno, ripeto, perché sono casalinga, ho due bambini piccoli, quindi comunque la mia casa è vissuta principalmente di giorno e difficilmente potrò modificare le mie abitudini, ripeto, proprio per una questione di, certo, di situazione che ho. E quindi la mia paura, ripeto, era l'aumento dei costi e soprattutto volevo capire se c'è un'alternativa. Esatto. Io dovrò inevitabilmente avere questa modifica, posso fare qualcosa? Perché infatti, io ho Enel, sono in provincia di Viterbo e voglio capire come muovermi eventualmente, certo, per evitare questo. Allora, sentiamo direttamente la società, magari per capire anche a chi muove un'osservazione di questo tipo, quale tipo di proposta alternativa fa l'azienda, perché di alternative ce ne sono. C'è il mercato libero, a parte il fatto di andare ovviamente a spostarsi da un altro operatore. Luigi Borrelli, credo che però magari questa azienda vuole tenersi ben stretta, Monica, a cui ovviamente Monica fa questa osservazione, appunto: io ho già stabilito che non posso modificare radicalmente i miei consumi di energia quotidiani, e quindi come faccio? Guardi, due cose. La prima è che la signora Monica tutto il tempo, attraverso queste comunicazioni e attraverso quando noi metteremo in modo molto chiaro, già lo stiamo facendo da gennaio, in bolletta la percentuale dei suoi consumi all'interno delle ore che abbiamo chiamate piene, quindi quella a più alto prezzo rispetto alle ore vuote, quindi avrà all'interno di questi 6 mesi di tempo la possibilità di capire se i suoi consumi sono in una fascia di prezzo più alta rispetto all'altra. L'altro aspetto che ha disposto l'autorità e che quindi noi ci metteremo in condizione di operare in tal senso, sarà che il prezzo per i prossimi 18 mesi sarà un prezzo dove la differenza fra il prezzo più alto e il prezzo più basso sarà di scarto minimo. Scarto minimo rispetto a quello che è il prezzo invece che avremo a fine periodo e fine 18 mesi. Questo ovviamente per l'introduzione graduale della novità, ma questo potrebbe comportare per dare il tempo al cliente di spostare un po' i suoi consumi nelle ore più a meno consumo, a meno prezzo. Quindi intanto si possono rassicurare gli utenti del fatto che qualora volessero verificare e testare l'effetto dell'applicazione della bioraria, come dire, l'effetto, anche se dovessero essere mantenuti inalterati i consumi durante, per esempio, la giornata, non sarà sulla bolletta qualcosa di clamoroso. Possiamo almeno rassicurarli su questo? Questo sicuramente per i 18 mesi transitori, ma già nei 6 mesi in cui diamo solo le comunicazioni avranno già la possibilità di capire dove si vanno a allocare i loro consumi rispetto, diciamo, a questi due prezzi differenti. L'altra cosa è il mercato libero. Il mercato libero offre delle opportunità enormi in termini di offerte e in questo sia la nostra società di vendita, ma sia altre società che operano sul mercato libero hanno tariffe ancora flat, quindi a prezzo unico sia giorno che notte, e qui qualunque cliente può andare a individuare quelle che più è confacente alla sua tipo di consumo.